Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. Buongiorno, 800 24 00 24. Per tanto tempo ho pensato che la satira, in particolare la vignetta, è un recinto sacro, no? Cioè, è perimetrato, è quel quadratino, e dentro quel recinto si può fare ciò che si vuole sostanzialmente. Si può e si deve, per far ridere, per far pensare, per esprimere la libertà dell'uomo di dire, di disdire, di mal pensare, di mal parlare. Per fare tutto questo, dentro il recinto sacro della vignetta si può fare qualunque cosa, e per fare qualunque cosa si intende anche parlare del sesso e della morte, che sono due componenti abbastanza importanti, diciamo, della vita umana, perché sono l'origine e la fine, e parlare del sesso e della morte in modo irriverente, cioè come dire, insomma, dissacrando l'uno e l'altra. Quindi l'umorismo macabro, che è tipico, no? La barzelletta macabra come la barzelletta sporca sono, come dire, il sale della comicità, dell'umorismo. La satira è diversa, non è soltanto umorismo, cioè non deve soltanto fare ridere commercialmente. La satira si propone anche di essere una sorta di linguaggio dell'antipotere, cosa solo in parte vera, perché poteri tirannici si sono avvalsi del concorso attivo ideologico della satira come spazio, diciamo, di espressione del dissenso. Ci sono cose più serie che si possono fare quando è veramente in gioco la nostra libertà che non deridere il tiranno. In genere, quando si deride il tiranno, vuol dire che c'è un regime bonario, che tutto è possibile, che tutto si può fare. Comunque, insomma, è interessante fare due chiacchiere sulla satira, tanto più che, come sapete, i fatti ci portano in questa direzione. Ieri io, come al solito, in questo periodo, in primavera, dormivo, quindi non ho visto Michele Santoro, che peraltro non è il mio menu televisivo preferito, però Michele Santoro lo conosciamo, ha promosso questa trasmissione, era abbastanza prevedibile, devo dire, che ha rotto un certo clima, sì, per alcuni aspetti un po' stucchevole, ma però fondamentalmente comprensibile, di coesione nazionale intorno alla tragedia del terremoto in Abruzzo, e ha detto le solite cose che qualunque giornalista, il quale si interpreti come spadaccino nella lotta contro le menzogne del potere, avrebbe detto, senza neanche riguardo ai fatti. Comunque le avrebbe dette che si costruisce male, che le case cascano non perché la terra trema, ma perché l'uomo è cattivo, che l'uomo è cattivo perché è avido, che l'uomo è avido perché vuole il denaro, che vuole il denaro perché vuole comandare, che allora ci sono invece tutti gli eroi, quelli che scovano, che capiscono, che prevedono il terremoto, prevengono il terremoto, salvano delle vite umane. Insomma, tutto quel romanzo noiosissimo dell'antipotere, del contropotere, della bella vita, diciamo, dell'opposizione delle anime belle. Secondo me sono in larga parte stupidate, come si dice a Milano, però naturalmente poi invece per alcuni aspetti è anche essenziale che esista, quando soprattutto è una cosa seria, documentata, vera, precisa, delimitata, e non un polverone generico in cui si mette tutto insieme. È importante che ci sia anche una capacità di denuncia delle cose che effettivamente non vanno, delle regole che vengono trasgredite, e appunto di ciò che può aggravare una tragedia nazionale come un terremoto. Bene, ne parliamo di tutto questo, della satira, del giornalismo di contropotere, eccetera, con alcuni tra i protagonisti di questa vicenda. Primo fra tutti Mario Giordano, direttore del Giornale. Il Giornale di Milano è il giornale che più di altri ha, diciamo, impiccato alle sue responsabilità, uso questa metafora un po' cruda, un po' sanguinolenta, Michele Santoro, e sta facendo a botte con Michele Santoro in modo corretto, duro, credo fondamentalmente leale dalle due parti, ma insomma in modo sapido, significativo. Quindi Mario Giordano ci dirà il suo parere. Vincino è un grande fumettaro, vignettista, filosofo della satira, ed è anche fare vignette per il mio giornale, quindi mi piace particolarmente da tanti anni. Emilio Giannelli, vignettista del Corriere della Sera, quindi diciamo una istituzione, sebbene naturalmente istituzione è il termine che qualunque autore di satira rifiuterebbe per sé. Però sulla prima pagina del Corriere della Sera, che è il più grande giornale italiano, c'è sempre la vignetta di Giannelli, che spesso è molto molto carina, divertente, pungente, eccetera. E anche lui spesso viene tirato in ballo. Berlusconi ha chiesto il licenziamento dei direttori dei giornali del Corriere della Sera per una vignetta di Giannelli non più di qualche settimana fa. Infine Stefania Carini, critico televisivo di Europa, che è docente all'Università Cattolica di Milano, che dice: sì, va bene la satira, però bisogna che ci fate ridere. Bisogna che ci facciate ridere, scusatemi la perdita del congiuntivo. Bisogna che ci facciate ridere, perché sennò, se pretendete di combattere il potere e di stare dalla nostra parte, ma senza farci ridere, e questo secondo lei è il caso più recente, allora non va bene. Bene, sentiamo cosa ha detto il grande guappo nazionale Michele Santoro a Mario Giordano, direttore del giornale, ieri sera. Stasera vorrei soprattutto salutare i lettori del giornale. Ogni giorno si trovano 4-5 pagine che mi riguardano, quindi io li devo guardare con particolare affetto. E certamente Berlusconi ci divide, e questo è vero, però io vi adoro, anche se qualche volta proprio non vi capisco. Ma come? Il vostro quotidiano ha fatto delle memorabili battaglie per la libertà di satira. Il vostro quotidiano è quello che si è battuto come un leone perché venissero pubblicate le vignette su Maometto. Dico Maometto, che potevano essere offensive per l'Islam o per gli islamisti, come diceva Fini, il quale aggiungeva: non pubblicare quelle vignette sarebbe un segnale di intolleranza nei confronti della libertà di stampa e di satira. Ma ecco, questo fronte improvvisamente si scioglie, adesso se la prende con Anno Zero, e niente poco di meno se la prende con il nostro Vauro. Voi invece dovete fare uno sforzo per comprendere quello che vi suggerisce Emilio Fede. Lui poveretto è un po' vecchiotto, non ce la fa più, insomma, però dice: guardate che perché Berlusconi vinca ha bisogno di Santoro. Vedete il guappo, l'uomo di cattivo gusto, si vede subito, no? Quello proprio, il giornalista di strada, Emilio Fede un po' vecchiotto, non ce la fa più, invece lui si sente giovane, muscoloso, forte, Chissà che combina Santoro, che vita, che organicità. È un maleducato, è un uomo che non rispetta la vecchiaia, gli anni, i capelli bianchi. Cosa volete, che rispetti poi i morti del terremoto? Comunque, questo è il mio parere. Mario Giordano, ha sentito che dice Santoro? Ho sentito ieri sera, abbiamo già avuto modo di rispondere stamattina sul giornale, e io tanto anch'io ringrazio Santoro, perché l'onore di un attacco diretto in prima serata dagli schermi di una trasmissione così popolare direttamente a un giornale è una cosa che capita raramente, di cui bisogna essere orgogliosi. Beh, adesso spero che ci sia una sfumatura di ironia, naturalmente. Ironia per ironia. Ah, ecco, sarete consapevoli del fatto che queste cose poi vengono dimenticate, per fortuna. Resta invece la Gioconda, la Quinta Sinfonia. Noi abbiamo sabato scorso, dalla scorsa settimana, abbiamo attaccato la scorsa puntata di Santoro. Il nostro obiettivo, noi non abbiamo messo al centro le vignette di Vauro, diciamo, erano la conclusione di una trasmissione che secondo noi era tutta sballata, ed era sballata non perché, come diceva lei, si è rotto il clima di solidarietà accusando la costruzione delle case o dell'ospedale, cosa su cui noi fin dal primo momento, invito a guardare le collezioni del giornale, abbiamo dato tutte le informazioni anche più necessarie sullo scandalo delle costruzioni, dell'ospedale, della casa dello studente. Il problema era che nella puntata di giovedì scorso è stata data un'idea dei soccorritori, mentre ancora i soccorritori scavavano fra i macerie, come degli inetti, le persone con le divise che non fanno nulla, le bottigliette d'acqua che non arrivano, una cosa lontana completamente dalla verità, completamente lontana dalla verità, secondo quanto era stato descritto da tutti gli inviati di tutto il mondo, e di cattivo gusto a bare ancora aperte. Questa è stata la critica. Dopodiché noi non abbiamo chiesto, io ancora nell'articolo di stamattina continuo a sostenere il fatto che Santoro debba andare in onda, per cui non siamo per la censura nulla, però non si può neanche pretendere di andare in onda dagli schermi di una TV pubblica, quindi ha denaro dei contribuenti con i nostri denari e senza neanche la possibilità di essere criticato, cioè sull'altare dell'assoluta incriticabilità. Ecco, rivendichiamo il diritto di poter dire che quella è una trasmissione completamente sbagliata, di cui le vignette di Vauro erano l'ultimo tassello di cattivo gusto su una trasmissione che era volutamente, dichiaratamente, faziosamente sbagliata e lontana, completamente distaccata da quella che era la realtà. Allora, essendo questa una trasmissione che viene fatta, e questo poi è un altro aspetto che mi piacerebbe... Adesso fermiamoci, lei è arrivato alla fine del suo ragionamento legittimo di critica del modo in cui è stata impostata la trasmissione di Santoro alla faccenda della vignetta. Emilio Giannelli, che cosa vuol dire una vignetta di cattivo gusto? La vignetta di Vauro sappiamo com'era costruita, c'era una fila di bare e l'idea era di associare l'aumento delle cubature, cioè un elemento del cosiddetto piano casa di Berlusconi, ai cimiteri. Sì, si aumentano le cubature, sì, ma dei cimiteri. Quindi era una cosa irriverente, ovviamente, verso la tragedia della morte delle persone che seppellite sotto le macerie, ma era una forma di satira. Obiettivamente il nesso c'era, il nesso, sarcastico c'era. Però c'era buon gusto, non c'era buon gusto in quel momento, a quell'ora della sera, in una trasmissione di prima serata, il servizio pubblico, non lo so. Lei che ne pensa di questa vignetta di Vauro concreta e di questa accusa di cattivo gusto che lancia Mario Giordano? Ma io intanto sostengo che le vignette non possono dividersi in quelle di cattivo gusto e quelle di buon gusto. Ognuno ha i suoi gusti e la vignetta è di per sé irriverente e, rispetto a certi sentimenti, è sempre di cattivo gusto, perché chi non la pensa come ciò che viene detto nella vignetta è logico non trova di suo gradimento quello che viene espresso. Poi, se il momento particolare induce a ritenere che fosse meno opportuno e meno adatta, questo è un altro discorso, ma secondo il mio giudizio quello di sindacare le vignette per il gusto o non gusto è una cosa che non sta in piedi. Nel senso c'è che allora un criterio per sindacare le vignette o le vignette sono, come pensavo una volta e forse continuo a pensare, insindacabili? Cioè... Ma non è che si parli di questo aspetto. No, c'è un criterio o no? Ma no, non c'è un criterio, c'è, nel senso che a mio quindi giudizio... sono insindacabili le vignette, ma lo dico senza polemica. Insindacabili nel senso che lei dice, se non c'è un criterio... cioè anche la vignetta soggiace alle regole, alle leggi del nostro codice civile e del nostro codice penale. La vignetta deve essere un paradosso ironico che sottolinea una determinata situazione e sottolinea magari il malaffare di un certo personaggio o di più personaggi, ma non certo si può dire che lo stesso linguaggio della vignetta è il linguaggio di altre espressioni. Cioè il fatto che la vignetta di per sé sia trasgressiva e irriverente lascia impregiudicata la domanda che viene posta. Sì, certo. Ma lei, per esempio, di quella cosa che ho cercato di accennare prima, cioè che il grosso della vena comica riguarda il sesso e la morte, quindi l'irriverenza, il rischio oscenità, e queste cose qui fanno parte del mestiere. Fanno parte di un certo tipo di satira e vorrei dire, non è che voglio scambiare la satira con l'umorismo. L'umorismo macabro è sempre esistito, uh-huh. Cioè, a chi piace e a chi non piace, ma non per questo si può dire che non è possibile, che non è lecito fare dell'umorismo macabro. Uh-huh. Vincino, io uno dei timori che avevo durante il terremoto di adesso Vincino mi tira fuori una vignetta tipo quella di Vauro, cioè irriverente e macabra. Non è successo, l'ha fatto Vauro e è successo tutto questo spicinio, come dicono a Firenze. Ma io penso che se te l'avessi mandata quella vignetta là, tu l'avresti pubblicata e non sarebbe successo niente. Sì, è così. Dipende anche il contesto, in un certo senso. Dipende anche il fatto che, secondo me, Santoro usa Vauro come suo giubbotto antiproiettile. Cioè? Praticamente una vignetta ho disegnato io ieri sera. C'è Santoro e c'è Vauro appeso a Santoro, che il suo compito è prendersi tutte le pallottole Santoro sopravvive, Vauro invece è il giubbotto antiproiettile che può essere scambiato, levato e sostituito. sicuri, non facciamo il vittimismo, su, non credo che Vauro sarà fucilato sulla pubblica piazza. No, no, no, ma Vauro lo vuole fare lui, eh. Ho visto la sua intervista in cui lui si è disposto, a pur di salvare Santoro, ad andarsene. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, hanno fatto un gioco, sì, di reciproco eroismo. Forse comunque, anche un po' scocciato. Comunque, Vincino, mi interessa questa questione della sindacabilità o insindacabilità delle vignette. Allora, beh, Giordano ha detto, la trasmissione non mi piaceva, io l'ho criticata, d'altra parte abbiamo mandato in onda le frasi principali pronunciate in apertura da Santoro contro Giordano, contro il giornale. C'è una polemica giornalistica, si può, si deve fare, è lecito fare informazioni di servizio pubblico su un caso come la tragedia del terremoto in Abruzzo, con lo stile, il metodo, i toni e gli scopi, i fini. Gli avversari dicono di propaganda politica, lui dice di informazione contro il potere che ha usato Santoro, e questa è una questione. Poi c'è la questione della vignetta, e la vignetta è il problema della sindacabilità, o sono insindacabili o sono sindacabili. Giannelli, che è la Cassazione, che è l'istituzione, almeno così prima l'ho definito, dice sono sindacabili col codice civile e col codice penale, cioè uno va in tribunale e dice mi sento diffamato e quindi voglio un risarcimento, oppure fa un processo civile, punto. Per il resto sono insindacabili. Lei che pensa? Assolutamente insindacabili, guarda, totalmente. Io sono più di tendenza anarchica, cioè loro ci provano con tutti gli strumenti e io scappo, cerco e continuo a disegnare. Però in realtà la cosa bella è questa, che tutti i quotidiani italiani con grande solidarietà hanno tutti pubblicato la vignetta di Vauro, cioè Masi ha ottenuto il contrario praticamente. Sì, sì, il provvedimento... Come anche nelle vignette di Movetto, sì, sono state pubblicate, sì, da tutti i quotidiani occidentali. Sì. Sì, no, il fatto è questo, che ogni provvedimento, Giordano, vogliamo riflettere su questo punto, ogni provvedimento antivignetta e ogni polemica antivignetta che risulti vagamente censoria aiuta la vignetta. Questo è un fatto obiettivo, cioè la fa diffondere, la fa conoscere, la gente ne discute come stiamo facendo noi qui, viene riprodotta verbalmente, viene trasmessa di bocca in bocca, e questo sempre, in tutti i casi, non soltanto nel caso adesso di Vauro e di Santoro. Quindi forse, insomma, io capisco il povero Masi, adesso è appena arrivato eccetera, qualcosa doveva pur fare, c'era questa specie di scandalo, voi stessi soffiavate sul fuoco, però non so se sospendere un vignettista è proprio tecnicamente la cosa più opportuna da fare in un caso come questo. Io non faccio tragedie, è stato sospeso per una puntata, sono sicuro che è già tutto finito, siamo in Italia, è tutto finto, no? Però Giordano, mi dica un po'. Io non so se, anch'io non so se sia la soluzione, come dire, a tutti i mali, e non so neanche, cioè, a me non spaventa il fatto che venga diffusa. La vignetta di Vauro è stata vista davanti a milioni di telespettatori, io ho avuto una reazione immediata guardandola di schifo, credo che sia stato lo schifo che hanno provato tanti milioni di italiani, come ci hanno testimoniato le lettere, e l'abbiamo detto, che devo fare, devo stare zitto e non dirlo, non esprimere quella cosa. Dopodiché io non credo che le vignette non siano sindacabili, perché non è possibile costruire un recinto in cui è possibile dire di tutto. Se io faccio una vignetta e dentro ci metto degli insulti, cioè se stabiliamo il principio che tutto dentro quella vignetta è legittimo, allora costruiamo un recinto in cui io posso insultare, affermare il falso, bestemmiare, cioè fare di tutto, perché la vignetta è sacra. La vignetta deve soggiacere alle regole esattamente come tutto il resto, tanto più una vignetta che viene fatta non sul foglio o su un quotidiano privato, ma da una emittente pubblica in cui gli italiani, viva Dio, avranno il diritto di esprimere la loro opinione su quello che pagano, il loro contributo. Questa è una cosa un po' complicata, perché è vero che l'emittente pubblica fa servizio pubblico e la paghiamo anche con il canone, questo non c'è dubbio, però insomma... Cioè il giornalista non è un funzionario dello Stato. No, questo lei lo riconoscerà anche se lavora alla Rai TV. Io riconosco che però ciascun vignettista ha il diritto di fare e di pubblicare le vignette e di trovarsi l'editore, ma anche la TV pubblica ha il diritto di esprimere una propria linea editoriale in cui alcune vignette può decidere di non pubblicarle senza scandalo. Non è che il vignettista abbia diritto, ha diritto di pubblicare le sue vignette, ma non ha diritto di pubblicarle con i soldi dei contribuenti. Sì. L'equivoco però è questo, che il direttore del giornale Anno Zero è Santoro. Santoro, non il direttore generale della RAI, diciamo. È come se... direttore giornale, lei mi insegna, risponde a un editore. Sì. Un editore esprime una linea editoriale dando fiducia al direttore secondo alcune linee. Gli può revocare questa fiducia, ma non gli può dire prendi questo vignettista o quest'altro. Teoricamente stiamo facendo uno stupido discorso di deontologia dell'informazione. Giuliano Ferrara, posso intervenire per un attimo solo? A voglia, tanto più che lei tra un po' se ne deve andare. Io non sono un grande fruitore della televisione, riconosco questo. E qualche volta però, anzi abbastanza spesso, vedo sempre blob. Parla Giannelli, il vignettista del Corriere della Sera. Non lo dico perché magari la gente non sa che è di Siena e quindi però adesso... Blob manda in onda certi spezzoni e certe cose che pure sono apparse sulla televisione pubblica, sulla televisione servizio di interesse nazionale. E ci si scandalizza poi di una vignetta di Vauro con quello che va in onda? Io dico solo questo, tanto cancan per la vignetta di Vauro e altre cose passano sotto silenzio. Mi sembra che ci sia un giudizio o un coso diverso. Due pesi e due misure, va bene. Eccoci qui, 800 24 00 24, la vignetta, lo scandalo, il giornalismo contro il potere, ridere contro il tiranno. Andrea da Torino. Buongiorno. Allora, io sono favorevole a tutta satira possibile, ma secondo me il problema è un altro, è che Santoro, penso che sia dall'inizio dell'anno, che cerca di tirare la corda affinché dai dirigenti RAI o politici lo mandino via. Così lui continua a essere il martire e possa, non so, andare a Sky o andare a farsi una televisione sua, e secondo me tira la corda per farsi mandare via. E poi ho un'altra cosa da dire, scusi ma sto correndo, secondo me Anno Zero dovrebbe cambiare titolo, dovrebbe mettere Anno Zero col sottotitolo organo ufficiale del Partito dell'Italia dei Valori. Ho capito, va bene, una formale, diciamo, condanna del carattere fazioso, eccetera. Va bene, credo che ci siano anche altri pareri, naturalmente. Enrico da Firenze. Sì, buongiorno. Buongiorno. Ma dunque, qualche cosa vi volevo far notare. Dunque, il direttore del giornale faceva notare che la RAI è di fatto così, è un servizio pubblico. E strana cosa è però che si sia adeguata a un certo modo di vedere le cose, diciamo, che abbia condannato, diciamo, tra virgolette, così un Santoro, soltanto dopo che un Fini ha emesso il suo insindacabile pensiero in quel di L'Aquila sabato scorso, perché prima non si è neanche mossa. E questo quindi, non so, mi lascia molto a pensare su quello che è Scusi, ma questo monito Fini l'aveva emesso a nome della destra o della sinistra? Questo lo sa soltanto perché lui. Perché quando parla Fini sto facendo un tentativo Questo è vero, in quanto a questo mi convengo ampiamente, perché se non altro devo riconoscere un Fini che sa bacchettare a sinistra come a destra a seconda del caso, quindi no, in quanto a questo gli ho pur riconosciuto. Ma come questo, però dobbiamo chiudere, concludere. Sì, detto questo, comunque, qual è la sua obiezione? Ma è possibile che soltanto la sinistra faccia male quando fa delle sue osservazioni, diciamo, di un certo tipo, mentre tutto quello che Marco Travaglio ieri sera ha riportato nel suo intervento iniziale, no? Pezzetti di articoli in cui si parlava di un Prodi che piangeva. Sì, ormai le trasmissioni televisive cominciano così, prendono, non so, un Maroni ministro dell'interno, un Tremonti ministro dell'economia e lo fanno sedere lì. Io non capisco perché loro accettino questa cosa. Poi ci sono le forche caudine, cioè o è Travaglio o è Crozza. Allora, prima che cominci la trasmissione arriva Crozza e dà uno sputazzo, diciamo, al ministro dell'interno. Io, se fossi ministro dell'interno, invece di ribellarmi in quel modo un po' frustrato eccetera, insomma, mi alzerei in piedi e direi: scusate, io sono ministro dell'interno, non c'è un paese al mondo dove arriva un comico e gli sputa in faccia prima che cominci la trasmissione. Ministro dell'interno, cioè dalla mia funzione pubblica dipende la sicurezza degli italiani, capito? Di milioni di italiani. sono un pubblico ufficiale, una carica, è l'autorità civile, non mi potete sputazzare così. Quindi fatevi la vostra trasmissione, arrivederci e grazie. Ma prima di trovare un politico con gli attributi che sia in grado di fare in modo tranquillo, serio, sobrio, una roba del genere, voglia ce ne... Scusi, l'ho interrotta. Pronto, è andato via? No, non sono andato. No, eccolo qui. No, l'ho interrotta perché lei faceva riferimento a Travaglio. Io volevo spiegare il meccanismo simbolico delle trasmissioni. Prego. Il riferimento a Travaglio perché ha riportato un insieme di articoli o di pezzi d'articolo che diciamo ridicolizzavano un Prodi quando piangeva quando è stato il terremoto ad esempio nell'Umbria o fatti del genere comunque sempre legati a questo terremoto. Ora se lo faceva un Prodi o chi per lui, cioè quando la sinistra si è comportata più o meno nello stesso modo in cui si è comportata oggi un Berlusconi con diverso stile naturalmente, ecco, allora tutto cadeva nel ridicolo, mentre quello che fa adesso Berlusconi deve essere santificato alla grande. Va bene, perché non va posso bene. Accettare insomma. Certo, ha ragione perfettamente. Comunque non succederà niente, non è successo niente prima, non succederà niente adesso. Santoro ha trasmesso alla Rai, ha trasmesso a Mediaset, è stato sempre diciamo tranquillamente. Poi a un certo punto gli fecero fare una vacanzina, ma insomma andò al Parlamento Europeo, poi è tornato. Non la metterei sul tragico, diciamo, ecco. Va bene, c'è Stefania Carini che ha posto un problema. Lei esercita diciamo la critica televisiva su Europa. Ha posto un problema che secondo me anche Mario Giordano, direttore del giornale, che ha i nostri microfoni vicino, dovrebbero valutare, però glielo facciamo dire a lei. La satira deve fare ridere. Prego Stefania. Sì, buongiorno. Ma sì, diciamo che lo dico nel senso più alto del termine, cioè la comicità comunque deve sempre trasmettere comunque una verità, un dolore attraverso però una distanza. Cosa fa la comicità? La comicità mette in scena una realtà reale, la nostra, ma anche una realtà comica che parte dalla nostra ma è una realtà distante, esagerata, e in questo modo crea anche una connessione con il pubblico. Allora il pubblico ride di questa realtà esagerata, distante da lui, ma allo stesso tempo se il comico è bravo lascia intravedere la nostra realtà reale, ed ecco che allora io sono portato a riflettere attraverso la risata su un'altra realtà, a riflettere sulla mia realtà. Cosa succede? Che con quella vignetta in realtà si mettevano in scena due realtà reali, cioè la realtà del piano casa e la realtà delle bare, ma non c'era una realtà altra, una realtà comica, una distanza, e quindi poter ridere anche di quella distanza. Era una distorsione semplicemente fastidiosa. Un'associazione fastidiosa che non creava una vera connessione, non c'era una vera distanza, una realtà altra, metaforica, e quindi la possibilità effettivamente di ridere anche in maniera liberatoria. Ma beh, c'era tutto l'implicito però, non so, Stefania Carina, adesso trasmettiamo a Giordano e a Vincino diciamo la questione, io faccio la mia osservazione, c'era tutto l'implicito è... Berlusconi è un capitalista cattivo che sta a capo del governo perché ha le televisioni, sfruttando questa situazione di usurpazione Berlusconi vuole fare di nuovo affari. Fare affari che cosa significa? Significa aumentare la cubatura delle case, eccetera eccetera, combattere la crisi con l'illegalismo e la logica del condono anticipato. Tutto questo come si inserisce nella tragedia del terremoto? Con la connessione implicita che poi a far così cascano le case, non per colpa del terremoto, ma della cattiveria degli uomini, eccetera, eccetera. È tutta lì la vignetta, cioè è molto banale, ma insomma chi vuole ridere a queste cose può ridere. Giordano. Sì, io credo che il disegno era proprio questo, cioè era fare... legare il crollo delle case al piano casa, nel senso che lasciare libertà di costruzione significa dare che in realtà è un tema in realtà di dibattito interessante come tema serio. Io trovo che non fosse l'oggetto di una vignetta che non facesse ridere, come non ha fatto ridere ieri sera la Guzzanti, quindi il problema in realtà sollevato dalla collega. Com'era la Guzzanti ieri sera? Non la Guzzanti era di una tristezza infinita, era la fine di una carriera. Poverino. Comica, ah, sì, era tragicamente non faceva ridere, non aveva neanche lo sberleffo, non aveva niente, questa era era spenta, ecco, questa è stata, e secondo me questo è un problema reale. Il fatto di non, peccato di perché è una ragazza di grande talento. Vincino, faceva ridere la Guzzanti ieri sera o no? Non l'ho vista. Non l'ho vista la Guzzanti. Ma anche voi vignettisti vi permettete il lusso di non guardare le trasmissioni sulle cose che vi riguardano? Ma non si vergogna, Vincino? Ma come glielo dico? Ho guardato sino a quando sono venute le vignette tardi. Di Vauro. Ah, è arrivata tardi la Guzzanti. Okay. E poi dopo le vignette di Vauro non mi interessava più. A me piacciono le vignette di Vauro. Devo dire una cosa. Uno, i comici sono una cosa. Gli autorizzati dei disegnatori sono un'altra cosa. Ah, volete maggiore insindacabilità voi dei comici? No, non è la stessa cosa. Noi non siamo assolutamente... Io per contratto non devo far ridere. Devo rompere, poi ogni tanto faccio ridere, tanto no, devo rompere le scatole, devo raccontare le mie fantasie, ma non devo far ridere per contratto, assolutamente. Altra cosa, questa storia di Giordano ha pagati con soldi pubblici, questa volgarità dei soldi, è insopportabile, perché anche il giornale prende soldi pubblici, anche il Foglio prende soldi pubblici, tutti prendiamo soldi pubblici, ma non è che per questo io sono ricattato che prendo soldi pubblici, non devo rompere le scatole al governo, oh, ma scherziamo? Beh, ma non è prendere, a parte che il giornale non prende i contributi, ma al di là di questo, non diretti, qua apriamo un altro. La stampa, comunque, la stampa è foraggiata. Prende i soldi, non deve rompere i soldi. No, Vincino, sia rispettoso. Non è che non deve rompere, ho ribadito, rompere le scatole su elementi fattuali, su cose, è assolutamente così. Pretende di essere pagato per festeggiare contro la volontà, cioè non c'è nulla di male, dico, ma che uno mi ha pagato 3 lire, non dice... nulla. Aspettate, Francesco da Milano, perché la vignetta lui lo ha fatto sorridere. Francesco. Sì, buongiorno. Effettivamente è successo questo, a me quella vignetta è piaciuta abbastanza quando l'ho vista, un sorriso molto amaro, perché giustamente era relazionata più ai pericoli di un aumento delle cubature previsto dal possibile piano case che ai morti dell'Abruzzo. Lì la vignetta diceva, secondo me appunto, attenzione, che questo può essere il rischio. E è un sorriso amaro, perché ovviamente su un morto si sorride in maniera amara. Similmente nel resto della nelle altre vignette di quella trasmissione mi erano piaciute di meno. Questa qui mi aveva colpito sicuramente, ma proprio perché sta, se vogliamo, amarezza che era implicita. Bene, grazie. Luca, dalla provincia di Roma. Io volevo fare una testimonianza. Ero al campo di Acquasanta Aquila come volontario nei giorni in cui è venuta la truppa di Anno Zero, ed è venuta con una predeterminazione di cattiveria, perché erano pronti a cogliere qualunque difficoltà che oggettivamente poteva nascere, ma del tutto fisiologica, ed erano seduti su una panchina, alzavano la truppa e andavano a dire: ah, che è successo? Come mai? Perché questo? Quindi io distinguerei le vignette di Vauro dal comportamento scorretto di Santoro, che purtroppo registro, nonostante che io abbia una visione politica di Partito Democratico e quindi insomma dall'altra parte, però ritengo che sia stato scorrettissimo il suo approccio alla trasmissione. Stefania Carini al nostro microfono sulla questione delle vignette impazzite, delle vignette trasgressive, delle vignette che non fanno ridere o fanno ridere. 800 24 0024, potete telefonare come state facendo in tanti, per parlare con l'elefante di questo tema. Stefania Carini, lei ha detto che quella vignetta non faceva ridere, altri dicono che fa ridere, ma qual è il metro di misura, diciamo? È critica estetica, critica politica, critica... com'è che dobbiamo regolarci? Guardi, sicuramente la libertà di espressione ci deve essere. D'altra parte è anche vero che nel momento in cui uno si esprime si sottopone anche un giudizio, ed è ovvio che ci sono una serie di possibilità continue del giudizio. Che dire, in quel caso lì sicuramente c'era un problema al di là di quello che è stato espresso, che, ripeto, a mio avviso non creava una distorsione capace effettivamente di creare una risata, ma d'altra parte c'era anche un problema veramente di distanza, non era opportuna anche in quel momento lì fatta in quel modo, quindi c'è anche una questione di tempismo comico che è relativo anche a un contesto. Tempismo comico, è concetto Curioso, che vuol dire tempismo comico in cinema? Nel senso che i comici hanno dei tempi, c'è un tempo comico e c'è un tempo comico legato anche al contesto. Sentiamo in alcuni Vincino. Contesti ci sono alcune cose, c'è anche una sorta di censura interna che non è malvagia, anzi, è giusta. Vincino, lei sente mai la censura interna? Tempismo comico, cioè l'idea tempo di evitarle tutte e due, guardi, assolutamente. Ma poi metto la situazione di Vavo, Vavo sta là seduto, però Vincino, io voglio capire una cosa, che differenza c'è tra lei e Dio? Perché se lei è in, tra lei e Dio, perché lei è insindacabile, lo chiedo a lui. No, non lo conosco lei, invece lei la conosco bene da tempo, lei è insindacabile, lei evita qualunque forma di tempismo, a lei non importa niente della coscienza degli altri, lei piglia e fa la vignetta e basta, per contratto bisogna che la paghino anche bene e poi alla fine basta, lei è completamente irresponsabile, più del Presidente della Repubblica, più del primo Presidente della Corte di Cassazione, più del Presidente della Corte Costituzionale, più del Signore Padre Eterno, ma insomma Ma si rende conto in Cina? Ma quelli sono mestieri, io guardi, se pensassi di fare presidente di queste cose qua, sono mestieri terribili, noiosissimi, da accontentare tantissime persone, no, a me basta accontentare me e qualche amico mio. Ho capito, vabbè, siete degli irresponsabili, appunto, degli anarchici, della gente che... Ma per questo essere impiccati bene, al pennone della nave come i pirati. Davide da Roma. Buongiorno Ferrara. Caro Davide. Allora, senti, io volevo solamente dire una cosa, che mi sembra che molti stanno argomentando contro la vignetta di Vavro, sostenendo giustamente che viene pagato con i soldi dei contribuenti, quindi questo è il discorso inaccettabile. Io vorrei ricordare a queste persone, e poi anche a tutti coloro che ascoltano, magari forse non se lo ricordano, che i soldi nostri, come vengono chiamati, vengono dati puntualmente, continuamente, anche a molte altre forme di informazione, quindi tutti i giornali nazionali, certo, l'abbiamo detto prima, riviste di Taglio e Cucito, della Caccia, eccetera, quindi a maggior ragione credo che non si possa argomentare contro la vignetta usando questo argomento, ecco. D'accordo, d'accordo. Paolo da Terni. Pronto? Sì. Buongiorno Ferrara. Eccoci. Ieri sera la trasmissione che ha fatto Lauro, no? Le vignette, secondo me erano più offensive dell'altra volta. Cioè? In che senso? Irriguardose. Io mi sono sentito come, ma non come praticante, ma come una persona di questa collettività che magari crede a certe cose e questo signore si sente autorizzato a prendere tutti un po' in giro. Perché c'era la Via Crucis dei precari. Sì, la Via Crucis, quindi, secondo me non sta bene. Ho letto. Lo facesse con Maometto, no? Se lui è poi, però se lo fa con Maometto gli tagliano la gola, se lo fa con la Via Crucis eccetera, non gli facciamo niente noi. Però ecco, possibile in questo paese non si riesce a trovare la possibilità di fare una satira senza offendere nessuno? Io non lo so, me lo dica lei. Sentiamo Antonino da Milano. Non offendere nessuno, scusi. Sentiamo Antonino da Milano. Sì, buongiorno dottor Ferrara. Buongiorno. Niente, io volevo solo fare una riflessione. Per me la satira è proprio l'elemento che dimostra il nostro grado di democrazia in un paese, quindi non si può assolutamente condannare. È come il giullare alla corte che dà un po' fastidio, ma è chiaro che il giullare, come dire, deve dare quegli elementi di riflessione, deve un po' prendere in giro il principe su certe sue debolezze, quindi non può mai condannarsi, come dire, la funzione della satira, che è un elemento proprio vitale della democrazia. Quindi, ecco, me, però qui c'è una domanda, come, e poi la virerei a Mario Giordano, come si fa a prendere in giro il principe, a essere il saltimbanco del re, quando il principe è il primo a fare dell'umorismo, diciamo, andante? Ecco, Paolo da Milano. Sì, buongiorno. Ma sì, senta, io volevo dire questo, porre questa domanda al vostro consesso. Tra la vignetta di Vavro e l'ironia di Berlusconi sui 25.000 desaparecidos in Argentina, Videla, sì, Qual è la cosa più macabra? Quale differenza, ecco, c'è? Ecco, appunto, ho mandato in onda questa telefonata perché sapevo che questa era la domanda e avevo introdotto questo tema. Giordano, noi abbiamo un Presidente del Consiglio che fa molta ironia, molta autoironia, o almeno molto umorismo, perché quella barzelletta su Della Paresidos era molto irriverente, molto insultante, terribile, eccetera, però molto divertente. No? Sì, dice, andate fuori, giocate a pallone. Sì, ma infatti credo che siano... sugli aerei. levati cori di indignazione, se ne sia discusso, quindi come dire, no, rientra nel limite delle cose. Io credo che sia, riguardo anche a quanto diceva prima la collega di Europa, una questione di tempismo. La cosa che ha indignato in modo particolare di quella puntata e di quella vignetta, se vogliamo rimanere a parlare sulla vignetta, è che è stata fatta con le barre ancora aperte, il giorno prima, la sera prima dei funerali, in un momento di grande commozione del paese. Quando Berlusconi esagera nelle battute, fa battute che sono sconvenienti in circostanze, si discute, si fa. Io non credo che ci sia un problema di satira o di libertà di satira nel nostro paese, però ecco, e non voglio neanche ricordare che D'Alema, visto che molti a sinistra si stanno stracciando le vesti, che D'Alema querelò Forattini, citò in giudizio chiedendogli danni, perché anche quello è sbagliato, però ecco, che faccia vignette si ritenga al di là di ogni regola, io lo ritengo sbagliato. Così come ritengo sbagliato le due trasmissioni di Santoro, soprattutto quella di giovedì scorso, ma anche molto quella di ieri. Però nessuno ha ancora detto qual è la regola, perché anche Giannelli ci ha lasciato come piccola eredità, prima di andarsene, questo giudizio. La regola è il codice civile e il codice penale, punto. Al di là di quello, della possibilità di ottenere risarcimenti, di sentirsi offesi e di citare in giudizio la propria offesa e avere un risarcimento secondo i codici penale e civile, non c'è altro modo di ottenere un riscatto. Qual è la regola, Giordano, che lei invoca? Ma io credo che la regola sia quella che stabilisce, ripeto, se uno fa il Grande Fratello, uno bestemmia dentro la casa del Grande Fratello, qual è la regola? Va espulso o non va espulso? Ha offeso o non ha offeso la dignità? Se uno va in una trasmissione in prima serata e pronuncia una frase blasfema, offende o non offende? È la norma del comune senso del pudore che viene interpretato da chi in quel momento è tenuto a interpretare quello che è il sentimento comune degli italiani. Io credo di avere recepito, di avere portato forte la voce di una grande maggioranza di italiani che si sono sentiti offesi, non da solo dalla vignetta di Vau, ma da tutta la trasmissione di Santoro. Trovo strano che la dirigenza della RAI l'abbia vista con qualche giorno di ritardo, ma comunque va bene, la trasmissione l'ha vista con qualche giorno di ritardo, ha preso atto del fatto che quelle vignette sono state ritenute offensive, ma non, come diceva ieri Santoro, da uno berlusconiano o non berlusconiano, non c'entra niente in questo caso il berlusconiano o no, c'entra il fatto di aver offeso un sentimento comune oppure no. Questo il comune sentimento del pudore. Lei si rende conto, naturalmente, Giordano, di usare una formula che è andata in voga negli anni 40, 50, 60 ancora, fino a tutta la prima metà dei 60, e poi è stata la stessa parola pudore, credo sia considerata, uno che dice pudore dice una cosa un po' rivoluzionaria oggi, no? Pudore oggi è considerato ipocrisia. Oggi bisogna essere rivoluzionari? Così. Forse bisogna essere rivoluzionari, sì. Comune senso del pudore, allora, comunque. Ritorniamo al giudice Samperi di Palermo. Al giudice Samperi di Palermo, sì. Vabbè, non so, vabbè, vediamo. Si può anche pensare di essere al di sopra di ogni cosa, perché si fa un rettangolino e si scrive dentro tutto. Ci sono le regole del codice civile, ha ragione Giannelli, ma ci sono anche le regole di offesa del sentimento di pudore degli italiani, soprattutto in circostanze in cui questi sentimenti erano particolarmente vivi, come quelle, ripeto, del terremoto o altre circostanze. Di fronte alla menzione di una maggioranza di italiani che è con lui e con il giornale, Mauro da Padova telefona, ma non possiamo mandare in onda la telefonata perché siamo fuori orario, e dice che molti italiani non la pensano come Giordano. Bene, va bene, comunque la pensiate, benvenuti a Samarcanda. Com'era la cosa? Diceva Santoro sempre quando tirava tutti in quella trappola. Come la chiamò Martinazzoli? Martinazzoli è un genio, Mino Martinazzoli. Dice, non vado in una fumeria doppio. Fu stupenda, fu quella di... buona satira era, no, Vincino? La fumeria doppio era un caso di... stupenda quella definizione. Baci a Vincino, grazie a Giordano, ciao. Baci a tutti voi, grazie a Stefania, ciao. Carini, a Giannelli che se n'era andato, ci vediamo domani, e ringrazio come sempre naturalmente Franca Fossati in redazione, Gloria... No, lunedì, ci vediamo lunedì, state calmi, ho fatto un errore. Franca Fossati, Gloria Guerrera, in regia Paolo Corleoni, Giorgio Mattei, linea al GR più speciale Terremoti e poi Gianluca Nicoletti con Melog 2.0. Baci.